Vieni, dallo sangue com'è che va. La giustizia tu la cerchi col sangue. Non è giusto, non è fatta così. Sei la madre che ti abbraccia ora piange. Non è pace quella fatta così. Il governo non ha scrupolo se il popolo protesta. Se il popolo sta zitto è come un bue cala la testa. Se il capo che governa tratta tutti come un gregge, lo fa perché sa che il popolo può lo rielegge. È come il fumo vizio di notizia di immondizia. Se corrompe la giustizia come l'avvocato Mills e manda la milizia nella piazza terrorizza, mentre divora ideali come un pacco di rizza. Anestetizza quel qui se distoglie dall'informazione, perché l'opinione di ognuno è la soluzione. Chi vuole l'innocenza credo debba dimostrarla, ma dentro l'uguaglianza di ogni prova che parla, accettarla se concreta come creda puoi disfarla. Però sarei colpevole, spregevole intabbiarla. Per abolirla puoi solo scontarla, anche se vorresti solo strumentalizzarla. Anche se detesti la realtà non puoi scordarla, e se esiste una giustizia allora non puoi rinnegarla. La giustizia tu la cerchi con sangue, non è giusto, non è fatta così. Sei la madre che ti abbraccia ora piange, non è pace quella fatta così. La giustizia tu la cerchi con sangue, non è giusto, non è fatta così. Sei la madre che ti abbraccia ora piange, non è pace quella fatta così. Sento madri deluse perché non hanno aspettative sul futuro dei figli che sono rilegati a casa. Alcune piangono confuse per illusioni passive, mentre ascolto i consigli degli acquisti per la spesa. Nella mia nazione già mi sento uno straniero, proprio come il sangue misto col visto ma forestiero. Chi invece per davvero viene dall'altro emisfero viene trattato da zero, che sia bianco che sia nero. Sto dentro un'isoletta come quella dei famosi, comandata da una setta di politici mafiosi che senza tolleranza vogliono dare uguaglianza, mentre qui lavoro per ognuno una mancanza, proprio come il dialogo che resta inesistente, rendendo indifferente la gente, le sue fazioni, le sue azioni e le mansioni che già ricopre per niente. Il controllo è sociale ma non può avere la mia mente. Conta quanto vali, non contano i tuoi legali, anche se sono leali e compongono la tua corte. E i veri criminali rifuggono i tribunali se tradiscono ideali e danno sentenze di morte. Non fai la pace quando butti delle bombe, causi un'ecatombe sul suolo che giace marcio. Fai rivoluzione con sangue di altre persone senza mai pentirti come Renato Cuccio. La giustizia tu la cerchi con sangue, non è giusto, non è fatta così.